Questa è una storia di puro amore e fede. In una bella mattina d'estate, il conte Alaric stava andando a cavallo, trottando verso il suo regno. Si imbatté in un campo. Ciao, stai bene, signorina? Signorina, sei ferita? Puoi parlare? No, non sono ferita. Guarda il sole. Non ti sembra bellissimo? Sì, lo è, certo. Sì. Ma il conte Alaric non aveva nemmeno guardato il potente sole. Era incantato dalla bellezza della donna. La sua pelle chiara e gli occhi luminosi erano tutto ciò che poteva vedere. Si innamorò istantaneamente di lei. Signorina, ti sei persa? Come ti chiami? Io non lo so. Non conosci il tuo nome? No. Come sei arrivata qui? Non ricordo niente. Quando mi sono svegliata, ero già in questo campo e stavo guardando questa bellissima alba. Non ricordo nient'altro. Il conte Alaric sapeva che doveva aiutarla. Non l'avrebbe certo lasciata sola nel campo. Signorina, per favore, vieni con me al castello. Mi prenderò cura di te e nel frattempo cercherò di trovare la tua famiglia. Sei molto gentile. Verrò con te. Il conte Alaric fu così felice di sentire quelle parole, ma non riuscì a distogliere lo sguardo dalla donna. Sembrava guardarlo, ma i suoi occhi erano persi, come se stesse pensando a qualcos'altro. Forse ha paura. Devo proteggerla. Cavalcarono verso il castello. Il conte Alaric ordinò ai suoi servitori di prendersi cura in modo particolare della sua ospite. Ben presto si rese conto che doveva dare un nome alla bella donna. Immediatamente decise di chiamarla Catherine, perché non riusciva a pensare a un nome più adatto. È un bel nome. Grazie. Catherine era felice, ma non del tutto. Sembrava stesse pensando a qualcos'altro. Forse è stanca. Devo occuparmi di lei. Passarono giorni, settimane, mesi, ma non ci furono notizie della famiglia di Catherine. Nessuno, nemmeno nei regni vicini, ne aveva sentito parlare. Il conte voleva disperatamente aiutarla. Non poteva sopportare l'espressione nei suoi occhi, come se mancasse qualcosa. Voleva renderla felice. E se le chiedessi di sposarmi? Dirà di sì. Devo dirle che la amo. Ho tutto per renderla felice. Il conte chiese a Catherine di sposarlo. Catherine sorrise. Le piaceva quell'uomo gentile che l'aveva aiutata. Accettò e presto si sposarono. Il conte organizzò la più bella cerimonia nuziale che il regno avesse mai visto. Dopotutto, il conte stava per sposare l'amore della sua vita. Almeno un migliaio di persone parteciparono al matrimonio. Vi era un gran rispetto nei loro volti. Wow, la contessa è la donna più fortunata del mondo. Guarda questa cerimonia. Deve davvero amarla. Deve essere davvero felice. Il conte sorrise, ma guardò la contessa e il suo cuore affondò un poco. Mia cara, non sei felice? Certo, amore mio. Il conte Alaric le credette, ma vi era anche quello sguardo nei suoi occhi, come se stesse pensando a qualcos'altro. Il conte Alaric aveva finto le scuse per consolarsi. Il regno non avrebbe potuto avere una contessa migliore di Catherine. Tutti l'adoravano. Trattava tutti con amore e rispetto, ma il conte Alaric era triste. Sapeva che non gli apparteneva interamente. Ogni anno il conte dava un ballo per il suo popolo. Tutti danzavano con gioia, anche quelli che non sapevano ballare. Ma la contessa rimase calma. Non ballava e non sorrideva. L'espressione dei suoi occhi uccideva il conte ogni giorno di più. Provò a domandarle più volte cosa non andasse, ma lei lo abbracciava, sorrideva e rispondeva: «Ti amo, caro. E sono felice con te». Sebbene lei lo guardasse, il conte sapeva che stava pensando a qualcos'altro. Poi una notte, mentre il conte entrava nella sua stanza, fu sorpreso nel vedere che Catherine stava ballando. cara, perché non balli mai con me? Cosa? Non ballo mai, lo sai? Oh, amore mio, ma stavi ballando proprio ora quando sono entrato nella stanza, non ricordi? Cosa? No, io non ballo, ma a volte sento una delicata melodia, come se stesse suonando da qualche parte lontano, come se mi stesse chiamando. Il conte Alaric era confuso. Passò un anno. Presto arrivò il loro anniversario. Il conte pensò di sorprendere la sua amata contessa. Una notte prima dell'anniversario, cavalcò fino al campo in cui si erano incontrati per la prima volta. Catherine sarà felice. Aspetta, cos'è? Non ho mai sentito una musica così bella nella mia vita. Cosa? Il popolo delle fate? Pensavo fossero solo storie. Shh! Fai piano, Theodore. Questa è una cosa così strana. Aspetta, chi è quella? E lì, vestita con una bellissima veste rosa, vi era l'amore della sua vita, Catherine. Catherine! Ma prima che potesse dare un'occhiata più da vicino, il suo cavallo si imbizzarrì. Theodore era terrorizzato. Iniziò a correre nella foresta. Oh, basta, Theodore, calmati! Mi stai portando via dalle fate! Forza, forza! Basta così, ragazzo. Guarda dove mi hai portato. Torniamo indietro. Oh, no! Se ne sono andate! Il conte tornò di corsa al castello. Fu sollevato nel vedere che la contessa stava dormendo pacificamente nella loro camera da letto. Amore mio, dov'eri? Cosa? Stavo dormendo. Sembri stanco. Devi dormire anche tu. È tardi. Aspetta, non mi sbaglio. Era lei. Perché mi sta mentendo? Sembrava così felice lì. Ah, cosa faccio adesso? Solo una persona può aiutarmi. Magda! Il conte credeva a Magda. Lei conosceva tutti i segreti di questo mondo. Dopo aver viaggiato per 2 giorni interi, raggiunse una piccola capanna nel profondo della foresta. Oh, conte Alarico! Cosa ti porta qui? È la contessa, Magda. Ho bisogno del tuo aiuto. Il conte raccontò l'intera storia a Magda. Le parlò anche dello sguardo di Catherine, che lo addolorava da sempre. Mi guarda, ma pensa sempre a qualcos'altro. Cosa faccio? Oh, mio caro, non c'è niente che tu possa fare. Tua moglie fa parte del mondo delle fate. Deve essere rimasta indietro l'estate scorsa, quando l'hai trovata. La chiamano. Andrà da loro ogni estate per ballare. Forse continuerà a tornare per ora, ma verrà un giorno in cui non lo farà più. Cosa? No! Lei appartiene a me. Non c'è modo perché lei possa dimenticare completamente quella vita e diventare mia per sempre. Dammi delle erbe, qualche pozione magica, qualcosa. Figlio mio, nessuna erba o magia le farà dimenticare il proprio passato. Sarà sempre connessa al luogo a cui appartiene. Ma c'è una cosa. Cosa? Lo farò subito. Dimmi! Il tuo amore deve essere perfetto. Allora lei dimenticherà il suo passato. Il mio amore non è perfetto? Come posso renderlo perfetto allora? Lo capirai col tempo. Non preoccuparti, figlio mio. Va a casa e abbi fede nel tuo amore. Il conte Alaric tornò al castello. Ora era più educato e gentile con sua moglie. Eppure ogni notte lasciava il castello. Il conte ebbe diverse notti insonni passate a chiedersi se quella sarebbe stata la notte che avrebbe allontanato per sempre la sua amata moglie. Poi un bel giorno... Basta! La seguirò stanotte e le mostrerò quanto la amo! Il mio amore è perfetto e lo dimostrerò! È così! Catherine, sono io, tuo marito! Sono venuto per portarti via. Vieni con me. Lasciami andare. Vieni da noi, sorella. Lasciami. Non ricordi, amore mio? Vieni con me. Catherine si rese conto che il conte era troppo forte per lei. Sorrise vivacemente. Caro, lasciami finire la mia danza e prometto che verrò con te dopo. No, stai mentendo. Guardami, ci sono lacrime nei miei occhi. Le fate non sanno piangere. Tu me l'hai insegnato. No, Catherine, tu appartieni a me. Sorelle, datemi la forza. Sii forte, sorella, sii forte. Sii selvaggia, sorella. Sii fluida, sorella. Sii fuoco, sorella! Se ti tengo ancora fino all'alba, sarai ancora in parte mia. Ma non lasciò andare la sua fiamma. Sei troppo forte per me. Non posso lasciarti. Il conte fu felice. Sapevo che il mio amore era perfetto. Catherine, stai bene, amore mio? Ma la contessa non parlò. Si accovacciò e gemette. Vederla così infelice ferì gravemente il conte. Catherine, se rimani con me, ricorderai il tuo popolo e sarai triste? Li ricorderò, ma molto poco. Non sarò triste, ma sentirò sempre di aver perso qualcosa. E se tornassi dalla tua gente, ti ricorderesti di me? No, non ricorderò niente. Sarò solo felice. Non riesco a vederti infelice, amore mio. Ti amo troppo. Mia amata, torna dalla tua gente. Vai dove sei veramente felice. Il conte Alaric non guardò indietro. Non poteva sopportare di vedere il prato vuoto dietro di lui. Dopo aver cavalcato senza meta per ore, raggiunse il castello. Chi è lì? Catherine? Oh, amore mio! Che è successo? Quando mi sono svegliata ero sola nel campo. Come ci sono finita? Sapevo che mi stavi cercando. Oh, cara, non importa. Tutto ciò che conta è che tu sia qui, con me. Ti amo. Anche io ti amo. E sapeva che lo pensava davvero, perché i suoi occhi stavano cercando lui e nient'altro. Fu la fede del conte Alaric e il puro amore che gli avevano riportato la sua signora. L'amore perfetto è quando ami la felicità di qualcun altro più della tua.